Per noi la priorità è prenderci cura delle persone, ridurre le disuguaglianze. Oggi partiamo da questa proposta di una nuova casa della comunità a Savena, che riguarderà anche la realizzazione di una biblioteca. In tutti i quartieri ne avremo una. Il lavoro che facciamo è sull'educazione dei ragazzi, anche se sarà un nuovo servizio pubblico dedicato agli adolescenti. Buona parte degli investimenti dei fondi europei che abbiamo servono a ridurre proprio le disuguaglianze nelle nostre città. E Bologna, come città più progressista d'Italia, non può non avere questo tema al primo posto, accanto al lavoro e alla svolta ambientale. Casa di comunità qui a Savena, quando verrà realizzata? Partiamo con i lavori questa estate, perché dobbiamo realizzare il tutto entro giugno 2026. Sarà la prima di una serie di case di comunità che saranno in tutti i quartieri? Sì, abbiamo sottoscritto un accordo con ASL che oggi abbiamo presentato. Qui ci sarà un investimento di 7,5 milioni. 500.000 euro serviranno invece per la casa della comunità del Pilastro, che verrà riqualificata a partire dal poliambulatorio esistente, dove rimarranno tutti i servizi, anzi saranno aumentati. In più trasformeremo da casa della salute a casa della comunità le attuali case della salute esistenti, che sono già presenti negli altri quartieri. Ricordo che Savena e Santo Stefano erano gli unici due quartieri rimasti coperti da case della salute, avevano solo dei piccoli poliambulatori assolutamente non adeguati al bisogno della città. Dal punto di vista dell'urbanistica della casa, in che modo gli investimenti che stanno arrivando dal PNRR e dall'Europa andranno ad influenzare i progetti del futuro? Noi puntiamo come priorità a rigenerare le aree ferroviarie e le aree dismesse della città, quindi gli investimenti del PNRR possono essere un'occasione per sbloccare aree che sono da 15 anni ferme sulla base di interessi che la città ha, quindi avere più studentati, più edilizia sociale, più parchi, più servizi per i cittadini in luoghi che attualmente sono abbandonati. Questo significherà, lo troverete nel programma di mandato, anche un piano di investimenti sugli ospedali pubblici, Sant'Orsola, il Rizzoli e il Maggiore. Il Maggiore in particolare accanto ai prati di Caprara, dove realizzeremo da un lato un polmone verde, perché lasceremo il bosco crescere spontaneamente con un progetto sul quale investiremo anche risorse europee, un progetto unico in Europa, accanto a un ospedale maggiore che verrà riqualificato con gli interventi della regione. Quindi studenti anche in una prospettiva internazionale, per quello Bologna vuole essere una città molto connessa anche dal punto di vista dei trasporti. Sì, noi vogliamo attirare nuovi studenti e nuovi talenti, in questo l'abitare è fondamentale, ma anche una nuova idea di welfare che dia risposte a loro sui bisogni, anche se non sono residenti, il diritto di tribune in consiglio comunale, questo nel programma di mandato c'è, il consiglio dei ragazzi e dei bambini, quindi un'idea particolare di partecipazione anche dei più giovani alla vita collettiva della città. Più complessivamente il Tecnopolo, i centri di ricerca che Bologna ha, ci danno una grande occasione, quella di essere la città in Italia che insieme a Milano è più attrattiva e quindi deve essere in grado di accogliere anche nuovi abitanti.